Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cari ascoltatori, non siete capitati su un canale per bambini, perché insomma naturalmente Radio 24, anche Effetto Notte, sia fatto magari non in tutte le fasce, ma anche per i bambini di qualsiasi età, e trasversalmente, così come era trasversale, come trasversale un cartone animato, un fumetto come i Barba Papà, ai quali volevo rendere omaggio, perché oggi è scomparso, anzi in questi giorni si è avuta notizia oggi, il creatore, il co-creatore insieme a sua moglie Talus Taylor di questo fumetto così tenero, candido, con tanti messaggi positivi, che ha cresciuto generazioni di bambini, che è piaciuto contemporaneamente anche ai nonni, ai genitori, agli zii. Era bello ricordarlo così, poi ne parleremo. E già ho visto dall'altra parte del vetro dei visi che si sono improvvisamente aperti, inteneriti di qualsiasi età, quindi è una cosa a cui è giusto appunto rendere omaggio. Parleremo di questo, poi di argomenti anche molto più ponderosi, come spesso con Effetto Notte parleremo di politica. Quello che è successo nella Lega oggi è stato il Consiglio federale. Salvini, all'unanimità con tutto il Consiglio federale, ha deciso che Zaia sarà l'unico candidato alle regionali del Veneto, mettendo un po' nell'angolo Tosi e anche dandogli l'ennesimo out dentro la Lega o fuori, commissariando tra l'altro la Liga Veneta di Verona, di cui sarebbe segretario Tosi. Secondo voi, ecco il messaggio, l'input che vi lancio stasera per i vostri messaggi: cosa dovrebbe fare Tosi a questo punto? Restare nella Lega oppure uscire e formare un suo gruppo, andare con gli altri partiti? Il numero per gli sms è sempre il 349-238-6666, 349-238-6666, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco vi scrivo questo lancio, questo input, cosa deve fare Tosi a questo punto. Poi naturalmente ci sono altri argomenti, parleremo anche di un'importante scoperta che riguarda l'AIDS, una scoperta tutta italiana, ma insomma incomincio intanto a raccontarvi la giornata. Veneto, la Lega candida all'unanimità Zaia, out di Salvini a Tosi. In Campania, malumori sulla vittoria di De Luca alle primarie del PD. La visita di Mattarella in Germania, l'Unione Europea cambi passo, dice il Presidente, torni a crescere. Intanto dalla Germania esprimono gratitudine perché la sua prima visita estera l'ha fatta appunto là. Disoccupazione scende secondo i dati Istat, ma il 2014 è stato un anno nero. AIDS, una ricerca italiana svela dove si nasconde il virus dell'HIV. A Effetto Notte il coordinatore della ricerca. Calcio per il big match in campo Roma-Juventus. Partiamo quindi dalla politica, con il Consiglio federale della Lega, vi dicevo che si è tenuto oggi, che all'unanimità ha ratificato la candidatura di Luca Zaia alla guida del Veneto in vista delle prossime regionali, che secondo quanto aveva anticipato Renzi venerdì scorso dovrebbero tenersi il 10 maggio. Salvini, dopo i contrasti di questi giorni con il sindaco leghista di Verona Flavio Tosi, oggi gli ha dato l'out e spera, dice Salvini, che faccia Tosi una scelta saggia. Dopo, come vi dicevo, ce ne occuperemo. Per quanto riguarda il PD, c'è tensione all'interno del partito dopo la vittoria di Vincenzo De Luca nelle primarie campane per scegliere chi guiderà la regione. Un'iperattività nel Salernitano, una pigrizia del popolo napoletano. Le primarie del PD in Campania registrano delle anomalie sulla vittoria del sindaco e sceriffo Vincenzo De Luca, tanto che lo sfidante, l'europarlamentare Andrea Cozzolino, chiede una verifica del voto, ma già dice che attenderà i risultati ufficiali, rispetterà l'esito e non farà ricorso. Intanto De Luca annuncia a Sky il suo programma per sfidare il governatore uscente di Forza Italia, Stefano Caldoro. La priorità è liberare la Campania dalle coballe, risolvere definitivamente il problema dell'ambiente e della bonifica delle aree inquinate. Centro del mio programma è il lavoro, come potete immaginare. Fare della Campania il motore dello sviluppo del sud, perlomeno. Smentito poi l'anatema di Roberto Saviano, lo scrittore chiedeva di boicottare le primarie PD perché i candidati rappresentavano la vecchia classe politica, timori non concretizzati, spiega il segretario PD Lorenzo Guerini ad Effetto Giorno. Mi pare che il rischio che è stato presentato da Saviano non si sia verificato, perché in realtà la partecipazione è stata molto ampia, ma anche molto libera. Non ho visto e non mi sono stato riportato state in situazioni particolari. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ci sono poi sull'economia italiana i dati dell'Istat. L'Istat certifica le difficoltà incontrate dalla nostra economia nell'anno appena concluso. Stando ai suoi dati definitivi, nel 2014 il PIL italiano è calato dello 0,4%, la pressione fiscale è salita al 43,5%, mentre il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3%. Segnali incoraggianti arrivano invece sul fronte della disoccupazione, che sempre secondo l'Istat a gennaio ha registrato il secondo calo consecutivo su base mensile, scendendo al 12,6%, a migliorare anche il tasso di disoccupazione giovanile, mentre per quanto riguarda gli occupati, su base annua sono aumentati dello 0,6%, cioè di 131.000 unità. Nel complesso la disoccupazione resta ancora su livelli alti, ma gli ultimi dati confermano comunque un'inversione di tendenza. Positivo il commento del Premier Renzi, che invita però ad andare avanti con le riforme, mentre parla di dati incoraggianti il ministro del Lavoro Poletti, secondo il quale anche grazie al Jobs Act quest'anno in Italia potrebbero esserci 150.000 occupati in più. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dei dati Istat ha parlato anche il capo dello Stato Mattarella oggi in visita in Germania, la sua prima visita ufficiale all'estero, e ha detto: bene, ma aspettiamo dati sempre migliori. Anche di questo poi parleremo, se effettivamente questi elementi, questi dati sulla disoccupazione sono indice davvero di ripresa oppure ci sono altri elementi da intrecciare. Questo tra poco. Invece ora occupiamoci anche del segreto bancario. Sapete che nei giorni scorsi è stato firmato un accordo dell'Italia per eliminare il segreto bancario, prima con la Svizzera, poi con il Liechtenstein, e adesso è la volta del Principato di Monaco per porre fine appunto anche lì al segreto bancario. L'ultima cassaforte a prova di segreto storicamente importante per i contribuenti infedeli al fisco italiano è caduta sul filo di lana ieri pomeriggio, poche ore prima che si chiudessero i termini per agevolare il rientro dei capitali anche dalla Costa Azzurra. L'accordo, siglato dall'ambasciatore Antonio Morabito e per Monaco dal ministro degli affari esteri e della cooperazione Gilles Tonelli, ricalca quelli conclusi nell'ultima settimana con Svizzera e Liechtenstein. L'Agenzia delle Entrate potrà violare i segreti dei contribuenti italiani semplicemente inviando una domanda, individuale o di gruppo, ai colleghi d'oltralpe, che avranno l'obbligo di rispondere per le vie brevi amministrative. La totale trasparenza parte già da oggi, anche se per l'entrata in vigore effettiva del protocollo bisognerà aspettare la ratifica del Parlamento. Per effetto del nuovo bilaterale cade l'oblio del fisco italiano su 4 annualità dal 2006 al 2009, su cui i contribuenti infedeli non dovranno pagare nulla, ma semplicemente prepararsi a pagare la ritenuta sui rendimenti dei prossimi anni. Problemi ci saranno invece sulle annualità 2010, 11, 12, 13 e 14, su cui tra tasse, sanzioni e interessi il conto del fisco potrà arrivare a oltre l'80% del capitale. Alessandro Galimberti, Radio 24, Sole 24 Ore. Intanto vedo diversi vostri messaggi già su cosa dovrebbe fare Tosi dopo il Consiglio federale della Lega di oggi, ma spostiamoci intanto all'estero. In Egitto oggi è esplosa una bomba al Cairo, nella capitale, nel cuore della città, davanti all'Alta Corte di Giustizia. Circa una decina sono state le persone ferite, tra cui poliziotti, diversi ufficiali. Le notizie comunque sono frammentarie, i media hanno parlato di una o più vittime. A rivendicare l'attentato con un tweet un movimento considerato vicino ai fratelli musulmani, chiamato La Punizione Rivoluzionaria. Nella capitale la tensione, come potete immaginare, è alta, come spiega il collaboratore dell'ANSA al Cairo, Remigio Benni, al microfono di Livia Zancaner. La situazione evidentemente è di grande preoccupazione, di grande tensione. Quello di oggi è uno degli attentati più antipatici, perché è proprio un'autobomba che è scoppiata nel centro della città, nel cuore degli affari, del commercio e della vita della gente, insomma, vicino a questo grande palazzo di giustizia che raccoglie alcuni dei tribunali più importanti, penali e civili della città. Questo è il clima del terrore che o direttamente, anche se i fratelli musulmani dichiarano sempre di non voler ricorrere alla violenza, di non avere nessun contatto con la violenza, o gruppi a loro vicini, stanno tentando di avviare nel paese, proprio terrorizzando oggi ancor più i civili della polizia, ma anche i corpi di polizia, proprio per cercare di destabilizzare il nuovo governo, il nuovo presidente. Loro continuano a considerare Morsi l'unico vero presidente eletto dell'Egitto. Ancora all'estero, i funerali dell'oppositore russo Boris Nemtsov, ucciso venerdì scorso vicino al Cremlino, si terranno nella periferia occidentale di Mosca. Domani la sepoltura sarà nello stesso cimitero dove riposa la giornalista Anna Politkovskaya. Il tributo alla memoria del politico dell'opposizione sarà portato nella camera ardente anche dall'ambasciatore italiano a Mosca, Cesare Maria Ragaglini, insieme con altri diplomatici europei. E ora negli Stati Uniti, ancora polemiche sull'operato della polizia. Questa volta sono coinvolti gli agenti di Los Angeles. Ucciso un senza tetto a Los Angeles, monta di nuovo la rabbia nera. Un passante riprende la scena e la posta su YouTube. Nel video si vedono 6 poliziotti del dipartimento di Los Angeles tentare di neutralizzare con forza un senza tetto. Lo colpiscono ripetutamente dopo aver avuto un alterco. Si vede anche una donna in primo piano che cerca di raccogliere un manganello della polizia, ma gli agenti corrono verso di lei e la bloccano. La scena a questo punto diventa poco chiara, ma si capisce che la colluttazione prosegue col clochard. Seguono i 5 colpi di pistola. Le immagini ritornano nitide e si vede un uomo urlare: l'avete ammazzato, l'avete ammazzato, abbiamo registrato tutto, e brandisce un telefonino. Il senza tetto è stato dichiarato morto all'ospedale. Gli agenti erano intervenuti per rispondere a una chiamata per furto. Secondo la ABC News, i 3 sono stati sospesi in attesa dell'esito delle indagini. Enza Lodo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora parliamo di scioperi. Cioè, domani, dal 3 al 5 marzo, insomma, c'è lo sciopero dei distributori di carburante sulla rete autostradale. Autostradale, quindi l'autorità di garanzia per gli scioperi ha rammentato alle sigle proclamanti questo sciopero l'obbligo di garantire servizi minimi. In particolare deve essere prevista l'apertura di un distributore almeno ogni 100 km. Ricordatevi quindi, tra domani e il 5 marzo, evitate magari di fare la benzina sull'autostrada, fatela prima. E ora parliamo di una scoperta che riguarda il virus dell'HIV. È stato scoperto dove si nasconde nelle cellule. Una ricerca dell'istituto del ICEB di Trieste, che si apre così una nuova strada alla cura dell'AIDS. L'ICEB è l'International Center for Genetic Engineering and Biotechnology di Trieste. Per l'appunto il coordinatore di questa ricerca è Mauro Giaca, che saluto. Buonasera professore. Buonasera, buonasera. Quando si sentono queste notizie, professore, si vuole sapere esattamente dove vanno a colpire, cioè in che cosa consistono sinteticamente e soprattutto che speranze danno, quali possono essere i risultati dell'applicazione in tempo breve? Beh, la storia è abbastanza semplice. HIV e l'AIDS nascono all'inizio degli anni 80 con un'epidemia che ormai ha colpito 85 milioni di persone al mondo. All'inizio si moriva in 10 anni, verso gli anni 90 vengono introdotti dei farmaci che sono straordinari nell'allungare la vita e ormai hanno cronicizzato l'infezione, però di tutti questi 85 milioni di persone infettati, nessuno che sia stato infettato è mai riuscito a liberarsi dal virus. Il motivo è che il virus infetta le cellule e poi si integra nel patrimonio genetico delle cellule. E quello che abbiamo scoperto è dove si integra e come fa a integrarsi, quali sono le posizioni in cui si integra. Quindi nessuna cambiamento concreto delle terapie in questo momento, ma una comprensione che consentirà, forse speriamo, di sviluppare farmaci nuovi che possono portare all'eradicazione della malattia, cioè a guarire dalla malattia come si guarisce di morbillo, di rosolia, di altre malattie virali. Le speranze da 1 a 100, professore, so che è una domanda un po', però per dare un po' la misura. Difficile dare tempi e difficile da speranze, però diciamo che avendo identificato i meccanismi in cui il virus si integra e dove si integra nelle cellule, ecco che adesso uno può pensare di fare farmaci completamente nuovi. Ce ne sono 30 adesso in commercio, ma tutti hanno come bersaglio il virus. Qui si può pensare, abbiamo già cominciato a cercare di fare farmaci che abbiano come bersaglio le proteine della cellula che servono al virus per integrarsi, quindi classi completamente nuove che speriamo possano così combattere questo problema dell'eradicazione del virus. Grazie professor Mauro Giaca, allora buon lavoro. Ricordo direttore dell'ICGEB di Trieste. E adesso siamo al calcio, perché c'è il big match, così viene definito, tra Roma e Juventus, perché decide un po' della Serie A. È così, Dario Ricci? Sì, direi proprio così. Partita decisiva, Roberta, qui all'Olimpico. Siamo al 14° di gioco, risultato ancora di 0-0. Roma che ha provato subito ad alzare il ritmo, ma poi Juventus che ha preso un po' il controllo delle operazioni con i suoi cinque difensori, il centrocampo che schiera Vidal ma non Pogba in panchina, la coppia d'attacco con Morata e Tevez. Giallorossi che invece confermano gli 11 che hanno sbancato Rotterdam finora, nessuna occasione se non una girata al sesto di Tevez fuori di un paio di metri. All'Olimpico è il 15° di gioco, ancora 0-0 tra Roma e Juventus. Grazie da Luigi dell'Olimpico, poi ci aggiorneremo naturalmente man mano con i risultati. Adesso sentiamo se ci sono degli aggiornamenti per chi viaggia. Leggo qualcuno dei vostri messaggi arrivati tra la pagina Facebook di Effetto Notte, dove potete continuare a scrivere anche gli sms al 349-238-6666. A proposito di cosa deve fare Tosi a questo punto, tra l'altro la scorsa settimana è stato ospite qui di Effetto Notte, Umberto dice: uscire dalla Lega mi sembra ovvio, ormai le sue posizioni moderate sono ben lontane dalle posizioni che ha assunto la Liga, molto a destra, dice, magari avvicinarsi a Passera per cercare di colmare quel vuoto lasciato da Silvio Berlusconi. Luca dice: Tosi deve rispettare le decisioni del partito alla quale appartiene e aspettare il suo turno. E così poi gli altri messaggi a dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, c'è un messaggio anche di Clotilde che dice: cara Roberta, ma se la nostra classe politica è rappresentata da due Matteo, da un De Luca, da Casa Pound e tutti con un linguaggio da caserma, incapaci di argomentare, possiamo ancora sperare? Insomma, sicuramente non abbiamo la migliore classe politica d'Europa e del mondo, la vedo un po' meno negativamente, certo, però diciamo che certe osservazioni a volte vengono spontanee. Poi ancora i vostri messaggi su Tosi, che cosa deve fare Tosi? Questa è la domanda che vi faccio questa sera. Oggi è stato il Consiglio federale, Salvini di nuovo gli ha dato l'out, o dentro la Lega e ti adegui oppure fuori, e oggi c'era il silenzio stampa di Tosi dopo questo Consiglio federale. Intanto vi ricordo le altre notizie più importanti della giornata. Nuovo calo della disoccupazione, Renzi dice bene ma non basta, a gennaio c'è stato un meno 0,1%, poi il Presidente della Repubblica Mattarella è stato in visita a Berlino e dice l'Unione Europea cambi passo e torni a crescere. Zaia, vi dicevo, in Veneto candidato unico all'unanimità della Lega, Salvini lancia appunto l'out a Tosi, e intanto De Luca per le primarie PD vince in Campania e nel Partito Democratico nasce il caso sul Severino e c'è tensione. Insomma, e poi l'elicottero di Renzi oggi è stato costretto a un atterraggio forzato vicino Arezzo, si parlava di problemi meteorologici, e intanto Grillo però attacca e dice: quanto costa il renzicottero? Poi Nemtsov, il dissidente russo che è stato ucciso nei giorni scorsi davanti al Cremlino, domani ci saranno funerali vietati tra l'altro per la fidanzata, ma ci dovrebbero essere diplomatici europei che vanno a rendere omaggio. Poi l'ISIS che minaccia anche Twitter, il fondatore di Twitter, perché ha oscurato dei profili dei terroristi. E ancora polizia sciocca Los Angeles, uccide un senza tetto disarmato con 5 colpi di pistola. Parliamo allora di questi dati Istat che evidenziano degli spiragli per quanto riguarda il mercato del lavoro. La disoccupazione è scesa a gennaio pari al 12,6%, era il 12,7% nel 2014, è stata record, il massimo dal 1977. E oggi Renzi ha espresso la sua soddisfazione naturalmente via Twitter, ha detto più 130.000 posti di lavoro nel 2014, bene ma non basta. Il ministro del lavoro Poletti ha sottolineato che nei prossimi mesi potremo vedere l'effetto pieno delle misure varate dal governo con la riforma del mercato del lavoro, e dice anzi nel 2015 si prevedono nuovi 100.000 posti di lavoro, ma potremmo arrivare a 150.000. Insomma, tutto molto positivo, anche se il presidente dei deputati di Forza Italia Brunetta dice l'anno di governo di Renzi si chiude con risultati disastrosi soprattutto sul mercato del lavoro. Allora coinvolgo Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti. Insomma, questi dati positivi, negativi, luci e ombre, come sempre, non si sa mai se entusiasmarsi, forse troppo entusiasmarsi, ma almeno sollevarsi un po'. Ma ecco, più la seconda che hai detto, ecco. Come si direbbe. Sono segnali, sì, incoraggianti, parliamo del più 0,1, quindi insomma ancora siamo sullo 0, quindi non è proprio il caso di entusiasmarsi. È vero che si nota un trend favorevole di aumento dell'occupazione, è stato un dato particolarmente buono quello di dicembre, che aveva segnato da solo 93.000 posti di lavoro in più, e questo avrebbe fatto pensare a un grande boom in gennaio, perché a gennaio cominciano a entrare in vigore gli sgravi fiscali e contributivi che sono stati messi in campo dalla legge di stabilità per chi fa assunzioni a tempo indeterminato. quel boom obiettivamente non c'è ancora stato, ci sono questi 13.000 posti in più, insomma ancora è poca cosa. Però è anche vero che c'è il ritardo con cui sono stati messi in campo i decreti attuativi del Jobs Act, che sono praticamente partiti il 1 marzo formalmente, ancora rischia di aver creato un alone di incertezza e quindi un effetto ritardo nell'innescare le vere assunzioni che le imprese hanno in animo di fare. E quindi bisogna vedere il dato del primo trimestre del 2015 per capire se effettivamente si è voltato pagina sul versante dell'occupazione. Infatti, no, perché poi Poletti diceva a seguito dell'abolizione delle tipologie contrattuali più precarizzanti, vari cococò eccetera, potrà favorire la ripresa dei consumi in quanto dà alle persone una prospettiva più certa e definita. Anche questo è tutto da vedere, se davvero dà una prospettiva più certa e definita. Certo, sì, è chiaro che questo fa parte della strategia del governo, quello di disboscare un po' le forme di cosiddetto precariato per canalizzarle sul lavoro, sui contratti a termine, che non dimentichiamolo effettivamente continuano ad avere una performance molto forte, più 6,6% nel dato di gennaio, quindi vuol dire che il grosso dell'occupazione che si è fatto è a tempo determinato sulla base delle nuove normative Poletti che consentono fino a 36 mesi con 5 rinnovi, cioè un'applicazione piuttosto estensiva di questo tipo di contratto, che è stato molto attivato dalle imprese in questa fase perché gli consente di affrontare questo momento congiunturale di fine della recessione, ma non ancora di ripartenza effettiva della crescita, con lo strumento giusto. Ti faccio solo questa domanda di un ascoltatore, adesso non è il momento dell'esperto risponde, però Gianluca da Perugia credo dice: ma quanto è il limite massimo per non poter usufruire del bonus di 80 euro, il famoso bonus di 80 euro? Dice: ho uno stipendio di 1500 euro mensili, mi spettano o non mi spettano? Riesci così a calcolare? Non vorrei dire un errore, mi sembra un po' troppo alto a dire la verità, 1500 però, euro, sì. Però potrei anche sbagliarmi perché non mi ricordo il massimo. Infatti te l'ho girata lì perché Gianluca l'ha scritto in questo momento, anche se ho lanciato un'altra domanda per questa sera. Alberto Rioli, tu ci hai dato le risposte per il momento e ci risentiamo, e buona continuazione. D'accordo. E buon lavoro. Buona ciao, Alberto. Ciao, grazie. Ciao Alberto. Europa 24 notte. E a proposito di queste riforme, di questi dati, Mattarella, oggi intervistato dai giornalisti in Germania dove era in visita, ha detto: bene questi dati, ma aspettiamo dati sempre migliori. Berlino apprezza le nostre riforme, ma insomma si aggiornava, è stato cauto, no? Senza troppi entusiasmi neanche Mattarella. Sì, anche il suo stile comunque molto pacato. Mattarella che oggi ha iniziato un tour di 2 giorni, la sua prima era in missione all'estero, ricordiamo, da quando è stato eletto. Emissione che, se vogliamo, ricalca un po' la geografia ormai del potere in Europa. Prima Berlino e poi domani a Bruxelles, dove Mattarella è già in realtà arrivato questa sera, e domani incontrerà tutte le principali esponenti delle istituzioni europee, il Presidente del Parlamento Europeo, il Presidente del Consiglio Europeo, il Presidente della Commissione Europea, anche l'alto rappresentante che è italiana ed è Federica Mogherini. Oggi a Berlino Mattarella ha incontrato l'omologo tedesco Joachim Gauck, hanno parlato di Europa e Mattarella ha detto: l'Europa deve cambiare passo. Non so se abbiamo un contributo proprio su questa, un contributo audio su questo passaggio al discorso di Mattarella, sentiamo. Ringrazio molto il presidente Gauck per le espressioni cortesi che ha avuto nei miei confronti e per gli apprezzamenti che ha espresso nei confronti del mio paese e di quanto vi sta avvenendo con un impegnativo processo di riforma. Allora, questo dei rapporti insomma tra Germania e Italia e delle riforme apprezzate anche dalla Germania. Poi abbiamo un altro passaggio dove invece dice che proprio la crisi delle istituzioni anche europee eccetera ha rafforzato ulteriormente i rapporti. Sentiamo anche questo passaggio. Le relazioni tra la Germania e l'Italia sono speciali, hanno davvero un tasso di univocità, di condivisione, di amicizia il più alto possibile, e sono anche un elemento che contribuisce a rafforzare la spinta verso la crescita dell'integrazione dell'Unione Europea, che è necessaria sempre di più. La crisi ha provocato molti sacrifici in tante parti dell'Unione, ha creato molte difficoltà, ma anche provocato la nascita di strutture più solide dell'Unione Europea, e occorre far di più. Questo quindi prima visita ufficiale. La Germania, tra l'altro, visto che ha ringraziato il governo, ha ringraziato Mattarella di aver scelto la Germania per la prima visita all'estero. E tra l'altro Gauck ha anche apprezzato, cioè, ha espresso anche il suo apprezzamento per le riforme che il governo ha messo finora in campo. Riforme, tra l'altro, chieste a gran voce dalla Germania, insomma, un piano di riforme che in qualche modo riportassero la competitività dell'Italia a livelli accettabili dopo 20 anni, diciamolo pure, di assoluta stagnazione. Quello che poi non è emerso, però in realtà i media tedeschi lo hanno riportato, è l'offerta anche da parte del presidente tedesco Gauck proprio di aiuto all'Italia, anzi più che un'offerta, una richiesta estesa ai partner europei e di aiuto per quanto riguarda l'immigrazione, l'emergenza immigrazione, che ricordiamo sarebbe ora, forse sarebbe ora, però è sempre un po' un gioco, se vogliamo, di rimpalli tra gli stati membri e l'Europa. Abbiamo sì un'agenzia comunitaria che è Frontex a Varsavia, però bisogna anche dire che non ha un vero e proprio potere di pattugliamento e ha pochi mezzi, quindi è sempre un po' rimpallo tra stati membri che a parole danno la solidarietà all'Italia, a Malta e alla Spagna, ma poi di fatto quando si tratta di mettere in comune risorse in pool per quanto riguarda l'affrontare il problema dell'immigrazione, insomma, si resta un po' troppo sul piano delle parole. Comunque in generale una visita positiva. Poi c'è anche a dire, lo stile Mattarella è molto pacato, quindi molto istituzionale anche nei suoi risvolti. Ha visitato il memoriale del muro di Berlino, ha incontrato Angela Merkel e appunto da stasera a Bruxelles, dove domani ci sarà il suo vero e proprio battesimo. Quindi prosegue il suo tour. Grazie Sergio. Grazie a voi. Ciao Sergio. Ciao. E intanto prima di questa pausa volevo vedere ancora qualche vostro messaggio, visto che poi parleremo appunto della vicenda della Lega e di Tosi. Luca dice: Tosi deve lasciare un partito che non rappresenta i veneti e passare a sostenere i movimenti per la piena autonomia ed indipendenza di coloro che risiedono nel Veneto. Luisa scrive: Tosi deve ritornare alle origini della Lega Veneta, piena indipendenza per il Veneto fuori dalla Lega Nord. Questi sono i pensieri che vengono soprattutto appunto dal Veneto. Continuate con i vostri pareri liberamente sia sulla pagina Facebook di Effetto Noti, sia con gli sms al 349-238-6666. Tra pochino. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccoci qui insieme, Roberta Giordano con voi, naturalmente tanti altri temi adesso da trattare, parleremo di politica tra poco e poi anche di altre vicende legate all'Europa, torneremo anche sulla partita che si sta giocando, il big match, c'è Dario Ricci che ci dà un aggiornamento, Roma-Juventus, chi ha la meglio per il momento, Dario, dall'Olimpico? Per il momento nessuno dall'Olimpico, 0-0 ancora tra Roma e Juventus, da segnalare le ammonizioni per i giallorossi, Torosidis e De Rossi e la buona occasione al 21 per la Juventus, un contropiede, il cross era su terra dalla destra di Vidal e Manolas, il difensore greco della Roma, che per anticipare Morata deve sì in calcio d'angolo ma sfiora di pochissimo l'autogol. Al 25esimo altro contropiede juventino che nasce da un errore di Yangabiwa, proiettatesi in attacco, questa volta l'incursione Tevez Evra non ha successo. 34esimo di gioco, quasi 35, seguiamo il cross di Totti a centro area, svetta Chiellini che respinge, poi rinvio perfezionato da Vidal. 35esimo di gioco all'Olimpico, ancora 0-0 tra Roma e Juventus, Roberta. Molto bene, Olimpico niente di nuovo, quindi invece vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oltre che al 349-238-6666. Corrado, beh, ormai un Tosi sta alla Lega di Salvini come un Civati al PD di Renzi, non c'entrano più nulla con quei partiti. Cristian, Tosi deve stare sulle rive del Po in attesa del passaggio del corpo esanime di Salvini dopo la sconfitta alle elezioni venete. Questa è una previsione di Cristian. Martin, completiamo la trasmissione, scegliere altre strade, deve scegliere altre strade. Tosi, io vedo Tosi un leader potenziale del centrodestra. Adesso vi ricordo le notizie principali. Veneto per l'appunto, la Lega candida all'unanimità Zaia, out di Salvini a Tosi, in campagna malumori sulla vittoria di De Luca alle primarie del PD, la visita di Mattarella in Germania di cui abbiamo appena parlato, disoccupazione scende secondo i dati Istat, ma il 2014 è stato un anno nero. AIDS, una ricerca italiana svela dove si nasconde il virus dell'HIV, ne abbiamo parlato qui a Effetto Notte con il coordinatore della ricerca e direttore del centro di ricerca di Trieste. E poi per il calcio avete sentito l'ultimo aggiornamento Roma-Juventus. E subito all'inizio della settimana, occupiamoci comunque di politica che non manca mai con i suoi protagonisti, torniamo a parlare di Lega, perché oggi è stato il Consiglio federale della Lega Nord che ha ratificato all'unanimità la candidatura di Luca Zaia, presidente del Veneto, in vista delle prossime regionali. Vi ricordate che la scorsa settimana, insomma, vi ho raccontato un po' di tutte le diatribe, dello scontro, anzi vero e proprio, che c'è stato all'interno della Lega tra il segretario Salvini e il sindaco di Verona Tosi, il quale aveva ipotizzato di potersi candidare per le prossime regionali per governare il Veneto, però subito è scattato Salvini, che ha detto: nessuno può scavalcare Zaia, nessuno può sostituirlo, è il nostro candidato, e quindi aveva detto, e quindi chi non è d'accordo sia fuori dalla Lega. E aveva detto: sabato ci sarà la manifestazione, che vi ricordate aveva annunciato da un po', della Lega, di chi voleva unirsi in alternativa al governo Renzi. E fino all'ultimo sembrava che Tosi non potesse andare o non volesse andare, poi insomma, per non creare ulteriori dissapori, è andato. Però oggi c'è stata un'ulteriore tappa, che questo Consiglio federale, in cui si è deciso, come dicevo, di votare all'unanimità per Zaia come unico candidato. Però sentiamo Salvini cosa dice a proposito del voto di Tosi oggi. Tosi da, adesso non so come sia organizzata la fondazione, però da promotore, responsabile della fondazione, comprensibilmente non ha votato a favore, ma lo capisco. Quindi non ha votato a favore dell'unico candidato Zaia. E l'altra notizia è che Giampaolo Dozzo della Lega è stato chiamato a gestire la segreteria della Liga Veneta, di cui Tosi è segretario, quindi praticamente è stata commissariata in vista delle regionali. Tosi si trova in una posizione davvero molto complicata in questo momento, sentivate dalla sua fondazione, perché Salvini gli ha anche detto: scelga un out-out, o la fondazione o il partito, perché sono incompatibili queste due presenze, queste due collocazioni. Tosi si trova, dicevo, in una posizione molto complicata. Oggi l'ho cercato, mi ha detto che è in silenzio stampa, come si può capire che sia lì a riflettere per la scelta da fare. Allora coinvolgo Tommaso Cerno, direttore del Messaggero Veneto, che proprio dal Veneto, Tommaso, ci dirai un po' qual è la tua visuale di quello che succede all'interno della Lega e del governo anche del Veneto. Ciao Tommaso. Ciao, beh, insomma, è Montecchi e Capuletti, è una guerra veronese trevigiana che somiglia molto a Romeo e Giulietta, solo che questa volta la Giulietta in questione, che rischia di morire o di vivere, è Alessandra Moretti. Tosi la candidata è del PD, quindi, per la il candidata Veneto. Del PD e comunque la candidata di Renzi, e quindi di una visione governativa che ha sempre attratto il popolo veneto, così come molto forte è la presenza della Lega di Zaia, che è una Lega governativa, è una Lega molto diversa nei toni sia da quella del primo Zaia trevigiano sia da quella di Salvini, che abbiamo visto manifestarsi a Roma in una sorta di retromarcia su Roma, cioè di un addio alla Padania, di queste camicie verdi diventate magliette nere, con equivoci riferimenti a una destra generale che la Lega non aveva abituato i suoi elettori a possedere. La questione veneta è più profonda e più complessa delle elezioni regionali. Tosi, sindaco di Verona, che mette in piedi una fondazione in tempi non sospetti, è stato in pectore nell'era di transizione tra Bossi e Salvini il candidato premier di un movimento leghista più municipalizzato, in qualche modo civico, che poteva essere seguire in maniera meno brusca il Berlusconi che cadeva, e improvvisamente si è trovato a dover essere portatore d'acqua del suo gemello che non ha mai amato, Zaia, da Treviso, e nello stesso tempo servo di Salvini, cioè di una visione della Lega che Tosi non sposa, perché ha in sé invece una concezione molto diversa del partito territoriale rispetto a questa massa che si muove a cercare rabbia di cittadini e a cercare un motto patetico, nel senso di romantico, di che muove sentimenti profondi contro un governo che è quello del centrosinistra, che si attesta su percentuali ipotetiche che mai il centrosinistra ha raggiunto. In questo senso sta avvenendo una guerra che ha come matrice un'unica domanda, che è quella sopra la quale ancora Tosi non parla, mettendosi in silenzio stampa. Tosi oggi, in questo progetto abortito della sua candidatura a leader di un movimento nazionale, conta di più se Salvini lo convince a rimanere e quindi porta quei po' di voti della sua Liga, del suo modo di intendere la Lega, dentro una vittoria che sarebbe quasi scritta con la Lega unita, o conta di più se Zaia inciampa? E lì c'è il Montecchi e Capuleti, cioè Romeo e Giulietta, di due famiglie opposte che non necessariamente faranno la pace, ma che possono oggi creare un incidente di percorso abbastanza pesante a questo giovane leader lombardo che sta sostituendo Bossi con toni e orientamenti molto diversi da quelli cui la Lega ci aveva abituati. E quindi dentro il Veneto si sta giocando in realtà una partita più alta. Tommaso, cioè, non senti, per chiudere, adesso al di là di questa visione più ampia, ma per Tosi stesso a questo punto, poi l'abbiamo detto in silenzio stampa, ma molto brevemente, forse gli conviene un'altra alternativa che lasciare in questo momento, dopo che viene commissariata la sua Lega, dopo che gli si pone l'out-out con la Fondazione, che Zaia è l'unico candidato all'unanimità. Può rimanere dentro, secondo te, proprio in un lampo? Ma nella storia della Lega ci sono anche casi di questo tipo, però effettivamente anche la scelta di non votare, che Salvini cerca di ridurre a poco, è una scelta politica. Tu non voti non perché la tua fondazione è in gioco, tu non voti perché non sei d'accordo sul candidato unico in quanto ne avevi chiesti due e uno eri tu. È chiaro che oggi Tosi sul piano politico, se diventa conforme al pensiero leghista, viene spento entro breve. È anche vero che la rottura con un partito del quale fai parte da molti anni, che cui comunque ti lega una battaglia che affonda le radici nel tempo, non molto è una rischiosa. Cosa facile, è una cosa che al di là dell'opportunità politica ti coinvolge sul piano emotivo, ti costringe a confrontarti con migliaia di persone che hanno un'opinione diversa dalla tua, che cominciano a guardarti in un altro modo, segna una decisione che deve avere anche una prospettiva. Allora, qual è questa prospettiva? Una fondazione veronese o un ipotetico movimento autonomista che da una ricca città del nord leghista propone al centro-sinistra qualche cosa, come dire, che ancora non immaginiamo? È il ruolo di un giovane, non più giovanissimo, sindaco che ha dimostrato di saper vincere con i suoi voti anche quando il partito era contro di lui, che si vuole affermare a livello nazionale da solo? Sono queste le domande lo vedremo nelle a cui prossime deve rispondere Tosi. Lo lasciamo riflettere. Grazie a Tommaso Cerno, direttore del Messaggero Veneto. Ciao Tommaso. Grazie a voi. Ciao. E intanto vedevo i vostri messaggi, continuano ad arrivare sulla vicenda di Tosi al 349-238-6666 e alla pagina Facebook di Effetto Notte. Luisa dice: per me Tosi dovrebbe andare a farsi una birra con Fassina, che può spiegargli come rimanere in un partito con la cui leadership si è in aperto conflitto. Susi: sento una solitudine da Settimana Santa per Tosi, forse è meglio che aspetti la Pasqua e poi decida, buone cose arriveranno, è una brava persona. Grazie per i barbapapà di cui poi tra poco parleremo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Nel frattempo è uscita una dichiarazione di Tosi, che pur mi aveva detto, sono in silenzio stampa, però una l'ha fatta, ha detto via Bellerio, cioè la sede centrale ufficiale della Lega qui a Milano, sulla Liga, non il Veneto, ha voluto precisare Tosi. Intanto vi ricordo anche le altre notizie, che sono quella del nuovo calo della disoccupazione di cui abbiamo parlato. Renzi dice va bene ma non basta, a gennaio ecco il risultato, diciamo, è abbastanza minimo, meno 0,1%, però insomma per essere ottimisti. Poi il presidente Mattarella, nella sua prima visita ufficiale all'estero, è stato a Berlino, in Germania, ha detto l'Unione deve cambiare passo, deve tornare a crescere. Zaia, unico candidato in Veneto, votato all'unanimità dal Consiglio federale della Lega, ne abbiamo appena parlato, con Salvini che ha lanciato l'out-out a Tosi, e Tosi che deve capire a questo punto cosa fare. Poi tensione anche nel PD per la vittoria alle primarie del partito in Campania di Vincenzo De Luca. E poi l'elicottero di Renzi, che è stato costretto oggi a un atterraggio forzato, e Grillo che lancia la polemica: quanto costa il Renzicottero? E poi l'ISIS che minaccia ancora Twitter, il fondatore di Twitter, dicendo che ha cancellato dei profili dei terroristi. Europa 24 notte. Adesso della crisi dell'Ucraina, è stata sottovalutata, lo sappiamo, lo diciamo sin dall'inizio. Oggi ci troviamo in una difficoltà estrema, sia nella tensione nell'area, sia nel capire se Putin intende fermarsi ai confini già di fatto tenuti o se voglia andare avanti. Il ministro degli esteri russo Lavrov oggi ha dichiarato davanti all'ONU a Ginevra che l'accordo di Minsk del 15 febbraio scorso per un cessate fuoco è nel complesso rispettato. Oggi però, sempre nell'ultimo rapporto dell'Alto Commissariato ONU per i diritti dell'uomo, si rivela che i combattimenti nell'est dell'Ucraina hanno ucciso dall'aprile 2014 a oggi più di 6.000 persone, pensate. E oltre a questa devastazione resta anche il problema della fornitura di gas, delle tensioni tra Russia e Ucraina che tornano a minacciare le forniture di gas all'Unione Europea. Oggi sono stati praticamente due vertici, uno nella giornata e mattinata a Bruxelles tra i ministri dell'energia russo e ucraino e l'Unione Europea che aspetta, sta a guardare e cerca di capire cosa succederà. Un altro dovrebbe essere iniziato alle 20 di stasera, ora italiana, tra Putin, presidente russo, tra Poroshenko, presidente ucraino, la cancelliera Merkel e il presidente francese Hollande, per sempre, anche tra le altre cose, capire di questa fornitura di gas russo all'Ucraina. Ne parliamo con Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Ciao Sissi. Ciao Roberta, buonasera. Ci spieghi intanto perché questa tensione crea questo problema anche relativo al gas, che legami ci sono tra il gas della Russia, l'Ucraina e quindi poi l'Europa? Tutte le questioni relative al gas russo sono sempre state intrise di politica, di geopolitica e di mille altre questioni che vanno ben al di là poi della fornitura energetica o delle questioni contrattuali tra due paesi. In questo caso, in questo periodo, si stanno intrecciando ancora più strettamente, perché l'ultima disputa sulle forniture di gas che è intervenuta tra Kiev e Mosca è relativa proprio al fatto che Gazprom accusa gli ucraini di non pagare il gas interamente, sostanzialmente. Kiev risponde no, io lo pago tutto. In realtà poi Mosca vuole che ci facciamo carico anche di quello che invia alle regioni ribelli dell'est dell'Ucraina, quelle in cui si combatte per l'appunto, ci sono a quanto agli ultimi conteggi ben 6.000 morti e più. Sì, scusami, perché diciamo Gazprom è il colosso energetico russo, perché è la Russia che produce questo gas, ma l'infrastruttura ce l'ha l'Ucraina, cioè il gasdotto attraverso il quale il gas passa poi l'Europa attraverso l'Ucraina, no? Questo è il problema. Questo è il motivo per cui queste questioni ci appassionano e ci intimoriscono ogni inverno, si può dire. Ci sono state delle crisi serissime nel 2006 e poi di nuovo nel 2009, quando per dissidi e dispute di altro genere, ma sempre poi sullo stesso oggetto, Mosca aveva tagliato le forniture a Kiev, aveva sospeso le forniture a Kiev, e visto che dall'Ucraina passa una buona parte del gas russo diretto in Europa, si erano avute effettivamente ripercussioni nel cuore dell'inverno in diversi paesi europei, soprattutto paesi dell'est, ma le avevamo avvertite anche in Italia. Ora però decisioni non sono state ancora prese, no? Perché no, adesso non c'è nessun taglio del gas in questo momento, anzi sembra esserci qualche spiraglio di apertura dopo i colloqui di oggi, poi ti riferisco. Volevo solo anticipare che dobbiamo preoccuparci oggi molto meno di quanto non dovessimo preoccuparci nel 2006 o nel 2009, perché l'Europa nel frattempo ha reagito a questo rischio di interruzione delle forniture russe, e da un lato l'Ucraina è molto meno dipendente di prima dalla Russia e dall'altro noi paesi europei abbiamo un grado di interconnessione, possiamo scambiarci fra di noi il gas in maniera molto più efficiente, molto più rapida, e fare in modo che l'impatto di un'eventuale interruzione non sia forte come un tempo. Certo. Ora dobbiamo aspettare. Però oggi forse si sta risolvendo, forse, se dobbiamo, almeno temporaneamente, se dobbiamo dare retta alle dichiarazioni diffuse a una televisione russa dal ministro dell'energia russo Alexander Novak, che dopo questi colloqui ha detto del rinnovo degli accordi sul gas con l'Ucraina se ne riparlerà a fine mese, a fine marzo, quando scadranno gli accordi provvisori che sono in atto adesso e che erano già stati mediati dall'Unione Europea, e poi avrebbe anche affermato alla TV russa che l'Ucraina non dovrà pagare per le forniture russe alle regioni ribelle dell'est dell'Ucraina, che sembrava essere il nocciolo del contendere questa volta. Non c'è ancora nessuna affermazione, nessuna dichiarazione ufficiale da Bruxelles, però se queste dichiarazioni di Novak sono effettivamente attendibili, avranno un riscontro anche dalle altre parti, possiamo forse dire che il problema è accantonato, diciamo così. Grazie Sissi Bellomo. Ciao Sissi. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E torniamo a parlare allora dei nostri barbapapà con Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo. Buonasera, professor Mangiapane. Buonasera agli ascoltatori della trasmissione e a voi. Lo ricordo che è morto 82 anni a Parigi, Talus Taylor, che insieme alla moglie ha inventato il barbapapà. Pensate, lui era americano, la moglie francese, giravano per Parigi, questo si racconta, e a un certo punto lui sente bababà da un bambino che voleva qualcosa. La moglie, che era francese, gli spiega, vuole il barbapapà, cioè il filo, lo zucchero filato, insomma, che lì si dice barba di papà praticamente. E da lì si sono messi poco dopo in un ristorante a disegnare queste masse informi rose, e sono nati i barbapapà che hanno attraversato davvero generazioni e il mondo intero, tradotti in 30 lingue, Mangiapane. Qual è stato il segreto di questo successo incredibile? Allora, il successo di questa serie è legato moltissimo al maggio francese, al 68, alla cultura alternativa, e quindi in un certo senso i barbapapà hanno visualizzato una nuova onda di disegnatori e di fumettisti che in un certo senso proponevano un impegno nei confronti delle questioni più scottanti dell'attualità. In particolare il loro tentativo era stato quello di veicolare questi contenuti verso le generazioni più giovani, tanto che i barbapapà sono stati la prima serie che si è occupata di ecologia nei confronti insomma del pubblico dei più piccoli, quindi sono stati all'avanguardia in questo. Sono stati animalisti, ambientalisti, anche un po' femministi, e poi questo anche in modo surreale, candido, questo candore, questa tenerezza sicuramente ha conquistato i cuori dei più piccoli, ma anche gli adulti, no? Di fronte a un cartone animato di questo tipo sono rimasti, ce l'hanno nel cuore, io sento anche adulti. Assolutamente sì. Tanto che la serie dei Barbapapà è stata recentemente rilanciata all'interno del palinsesto di Rai Yo-Yo, la televisione tematica della Rai che si occupa di fare intrattenimento per i più piccoli. Questa cosa in un certo senso ha rilanciato il loro esperimento, il loro modo di raccontare nei confronti dei nostri, diciamo, dei nostri figli, 40 anni, che adesso hanno potuto guardare e riflettere sui contenuti della serie. E se non li conoscete, andateli a vedere, godetevi proprio papà. Grazie Francesco Mangiapane. Ok, arrivederci. Grazie, ci sentiamo dopo.